è una frase offensiva, molto offensiva, che come spesso succede è coperta da un velo diabolico, di falsa spiritualità. Una persona singola avanti di età, o un coniuge rimasto solo, si lamentano della solitudine nella quale si trovano con qualcuno che è felicemente sposato, che ha una vita tutto sommato serena e confortevole, ed esprimono il loro continuo dolore e desiderio di trovare finalmente una persona con il quale condividere la loro esistenza. La persona ascolta con interesse. Intenta nel voler aiutare un cuore solitario e sofferente, pronuncia una domanda del peggior gusto. Che esista, ma non ti basta il Signore? Ho assistito più di una volta a questa scena e devo dire che ho visto il volto di chi si lamentava ancor più contorto da un incredibile dolore. Al dolore della solitudine si aggiunge la sofferenza di non essere compresi, ma piuttosto condannati di mancare di spiritualità. Eppure è stato appurato che la solitudine è una situazione molto più difficile da sopportare di tante altre situazioni. Perché la solitudine è una ferita così profonda nel cuore dell'uomo? Cosa succede nelle menti di chi non trova un compagno o una compagna con il quale condividere la vita? La solitudine è solo questione di opinione, di carattere, o vi è una ragione che è radicata nel profondo della natura umana? Non bisogna nascondere che non tutti soffrono la solitudine nella stessa maniera, come non tutti soffrono il caldo nello stesso modo, ma è un dato di fatto che per una persona normale la solitudine è una situazione difficile da gestire e a volte insopportabile al punto che alcuni giovani o ragazze arrivano al matrimonio soprattutto per avere una compagnia. Perché dunque l'uomo o la donna meno, anche se è vero soprattutto per l'uomo meno, cercano la compagnia? Gli psicologi hanno una loro risposta che non è del tutto da scartare. Ma per un credente la risposta arriva soprattutto dalla parola di Dio, e precisamente nel libro della Genesi, dove viene descritta la creazione di Adamo. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: «Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai». Poi l'Eterno Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui». È possibile discutere e contraddire un'opinione umana perché l'uomo è relativo e limitato, ma non è possibile contestare il giudizio dell'Eterno Dio, non solo perché davanti a lui è saggio tenere la bocca chiusa, ma perché, essendo il creatore della razza umana, egli conosce ogni sua necessità fisica e morale. Se l'Eterno Dio nel creare Adamo ha detto che non era buono che l'uomo fosse solo, significa che non era stato creato per essere tale. La parola di Dio motiva questo fatto, insegnandoci che gli esseri umani furono creati a immagine del Dio Trinitario, il quale è una relazione nella sua essenza concreta. Dio non è un'unità singola, è un'unità collettiva, contrassegnata dalla calda intimità e dall'amore intenso. Il coro dell'universo e ogni realtà esistente rispecchiano le persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, le quali coesistono semplicemente e eternamente, amandosi e traendo piacere l'uno dall'altro. Le caratteristiche principali di questa collettività di persone eterne primarie sono l'amore, l'intimità, la comunità, la creatività cooperativa, la comunicazione e la stabilità. Dio non diede ad Adamo un altro uomo con il quale stare, lavorare e divertirsi. Diede ad Adamo qualcuno che fosse come lui a figura di essere umano ma diverso da lui nella sua cofigura che rifletteva la femminilità. Dio stabilì l'umanità e la cultura umana sul matrimonio, sull'unione sessuale, con sentimenti emotivi tra uomo e donna e sulla famiglia. Ha stabilito che la coppia fosse in grado di generare una nuova vita mediante l'unione sessuale e di cooperare nella crescita dei figli. Nella descrizione della creazione di Adamo ed Eva, Occorre riconoscere che l'Eterno Dio ha rilasciato l'affermazione più forte e importante che sia nota all'essere umano in merito alla parità sessuale, poiché il maschio e la femmina assieme rispecchiano l'immagine reale di Dio e non possono farlo pienamente l'uno separato dall'altro. Ecco perché non era bene che Adamo fosse solo. Perciò il matrimonio è sostanzialmente trinitario, poiché esso costituisce il modello terreno più vicino all'eterna realtà celeste che sia a nostra disposizione. Uomo e donna, sebbene siano esseri separati e rappresentino entrambi le loro uniche porzioni di umanità, sono uniti assieme davanti a Dio per diventare una sola carne. Nell'ideale, la relazione tra uomo e donna è un rapporto d'amore e di intimità, di creatività e di procreazione, di comunicazione, di esclusività e stabilità. Essi sono un mistero che proclama in modo straordinario la natura di Dio e il suo carattere nella creazione. Ecco perché non è bene che l'uomo sia solo. Questo giudizio dell'Eterno è riferito alla caratteristica fondamentale di ogni essere umano, in quanto tale un simile giudizio non è da prendere come optional o come una cosa della quale si possa fare a meno. È vero che non tutti gli esseri umani sentono la solitudine nel profondo del loro essere, ma queste eccezioni non sono da applicare in senso generale, soprattutto non a coloro che esprimono disappunto a causa della loro solitudine. Rispondere «Ma non ti basta il Signore» a chi desidera sposarsi per realizzare quella profonda comunione costituente in modello terreno a nostra disposizione che più si avvicini all'eterna realtà. Celeste è, oltre a maleducazione, un atto di ignoranza nei confronti dei piani di Dio. Chi desidera sposarsi con senso di responsabilità desidera un'attività e un legame sia fisico sia spirituale, che nell'ideale aspira a esprimere nell'amore che fa dono di se stesso, nella cordialità, nell'intimità, nella passione, nell'esclusività, nella fedeltà e nella creazione di una nuova vita. Chi desidera una unione duratura mediante un matrimonio sa che l'impegno, la protezione e l'amore sono espressi nel suo giusto contesto, perché se praticato al di fuori di questo è qualcosa di realmente inferiore a ciò che ha inteso il Creatore. Non solo. Una relazione sentimentale e fisica espressa fuori dal matrimonio è allo stesso tempo qualcosa d'altro che non assomiglia alle relazioni divine. Nessuno dovrebbe dimenticare che molto più di un puro atto fisico l'unione sessuale è un mistero, una raffigurazione terrena dell'intimità e comunione celestiale condivisa dall'eternità dalle persone della Trinità. Molto probabilmente è per questo che dove se ne ignora la provenienza e l'immagine, la sessualità viene adorata, non sapendo che nell'atto di adorazione i sacrileghi non fanno altro che approvare, oltre la bontà del dono della sessualità, anche colui che l'ha ideata. E anche per questo che il Dio della parola elogia la sessualità, elogio che possiamo vedere nel seguente brano. Bevi l'acqua della tua cisterna e l'acqua corrente del tuo pozzo. Dovrebbero le tue fonti spargersi al di fuori, come ruscelli di acqua per le strade, siano per te solo e non per gli estranei insieme a te. Sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù. Cerva amabile, gazzella, graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo e sii continuamente rapito nel suo amore. Proverbi 5, 15-19. Il seno della donna rappresenta in modo evidente e visivo la diversità dal maschio, e non solo per mettere in mostra che essa è come lui a figura di essere umano benché diverso da lui, ma rappresenta anche tutto ciò che ha bisogno all'uomo per essere completo e completato. Chi non ha colto questo è come colui che, pur possedendo una macchina, cammina a piedi. Non basta dunque il Signore, anche se si ha posto fede in Cristo. Spesso si offende colui che cerca un compagno rispondendo «Sta scritto che in Cristo sia tutto pienamente». Colossesi 2.10. Anche se la Scrittura afferma che sia la pienezza in Cristo, ma comprendendo una verità che non si cali, nella realtà quotidiana ci si rende colpevoli di mancanza di umanità. Anche gli apostoli avevano posto fede in Cristo e lo servivano con tutto il loro cuore, ma spesso erano nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. 2 Corinzi 11.27. La loro fede in Cristo non impediva agli apostoli di soffrire dell'indigenza, come l'apostolo Paolo non riteneva sbagliato sia per i celibi, sia per le vedove, di sposarsi. E è vero che l'apostolo Paolo ha invitato tutti quelli che potevano rimanere soli a preferire questa situazione, ma se qualcuno per un innato e sano desiderio ambisce al matrimonio, non è da ritenere meno spirituale di chi non sia neppure sfiorato da un tale pensiero. Viene da pensare che chi ritiene il matrimonio una situazione meno nobile del celibato, consideri chi cerca il matrimonio sia motivato da una ragione puramente sessuale. Ma, come abbiamo detto, il matrimonio è soprattutto una relazione di reciproco amore, amore che si esprime in mille modi e in mille maniere. Anche in questo la parola di Dio non è avara. Quanto sono dolci le tue carezze, o mia sorella o sposa mia! Come le tue carezze sono migliori del vino, come l'odore dei tuoi profumi è più soave di tutti gli aromi. Cantico dei Cantici 4.10. Una coppia che non sa esprimere il suo affetto o amore con carezze, con baci affettuosi, con abbracci amorevoli, sta vivendo qualcosa di realmente inferiore a ciò che ha inteso il Creatore. Va ricordato che l'esercizio della sessualità è destinato a terminare, ma carezze, abbracci e baci affettuosi sono espressioni che si possono dare anche sul letto di morte. Va ricordato anche che la sessualità, secondo quanto ha espresso Gesù, non sarà esercitata in cielo, ma nulla fa pensare che in cielo non esistano espressioni affettuose. Se dopo i nuovi cieli e nuova terra si mangerà a tavola con Cristo, se ci sarà una città, se ci saranno piante che daranno frutto, se scorrerà il fiume puro dell'acqua della vita, se in cielo ci saranno ancora sentimenti quali l'adorazione, la gioia, la riconoscenza e soprattutto l'amore. Mi è difficile pensare che sia eliminata ogni espressione d'amore quale l'abbraccio e il santo bacio. Ho notato che in molti credenti vi è il desiderio non solo di rivedere i propri familiari, ma anche persone a loro care. E ho notato in loro il desiderio di abbracciarle quando le vedranno. E, bene non pensare al di là di ciò che è scritto, ma neppure rendere la realtà celeste disumana. E per questo credo che ciò che si prova nel campo spirituale entri nella realtà celeste. Realtà che si può assaporare anche in un matrimonio vissuto secondo i piani di Dio e agognato da coloro che sono soli. Desiderio, questo, più che legittimo. Ottobre 2006. Ellero.